la corvari y a la campo que bulla masaraga, de mulula con oma soy el la. Na con oma y el na, neri marijaneta. Cala dama yo loco con coque bulla masaraga, na con oma soy el la. Na con oma y el na, neri sani yo loco ta. Cala wari yo loco con coque bulla masaraga, de mulula con oma soy el la. Na con oma y el na, neri goro tan que le sidi. Kala kumanya na ma kanko di bolo na kemoluma na kono bira elela. Pion tomo o molu toma gorobe ni elela. Hey, wanto male. Pion tomo o molu toma gorobe ni elela. Hey, wanto male. Le muru la monie mosu yelela. Hey, wanto male. Sibi koyo musoku nela bula bani yelela. Hey, wanto male. Joli ba koyo musoku le muru la monie mosu yelela. Hey, wanto male. Kao koyo musoku nela bula wera kanto. Hey, wanto male. Narena koyo musoku le muru la kono bira elela. Hey, wanto male. Iyon to male na la bula bani elela. Hey, wanto male. Yeah,